L'altro pianeta di Laura Bettini. Ben ritrovati in questo sabato pomeriggio di un fine settimana in cui ricorre la giornata mondiale dell'alimentazione. E la FAO la celebra ogni anno il 16 di ottobre per commemorare la fondazione dell'organizzazione nel 1945. Parleremo di alimentazione oggi da due punti di vista diversi: quello di un imprenditore impegnato per una produzione agricola moderna e sostenibile e quello di un giornalista d'inchiesta, Stefano Liberti, che ha appena dato alle stampe la sua ultima fatica, I signori del cibo, edito da Minimum Fax. Cominciamo da qui con l'intervista che ha realizzato Daniele Zinni con Stefano Liberti. Siamo con Stefano Liberti, giornalista, scrittore, autore di inchieste, in particolare di un'inchiesta pubblicata da Minimum Fax proprio poche settimane fa che si intitola I signori del cibo. Tu, Stefano, hai seguito quattro filiere di produzione dell'industria alimentare viaggiando per quattro continenti, se ho contato bene. Quindi intanto buongiorno, e poi quali sono le filiere che hai seguito e perché hai scelto quelle? Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ho seguito le filiere alimentari di quattro prodotti in particolare, come dicevi tu, che sono la carne di maiale, la soia, il tonno in scatola e il pomodoro concentrato. Li ho seguiti perché sono innanzitutto la carne più consumata al mondo, uno dei prodotti di mare più consumati al mondo, il legume che ha un maggiore sviluppo nella produzione nel pianeta, e il pomodoro, anche il maggior frutto diffuso nel pianeta ed ha anche una certa importanza per il nostro paese, e sono elementi costitutivi della dieta di buona parte della popolazione mondiale. Sono andato nei luoghi di produzione, di commercializzazione, di trasformazione di tutti questi quattro prodotti per cercare di rappresentare in qualche modo il funzionamento del sistema alimentare globale, un sistema alimentare globale e globalizzato, cioè che si muove un po' in tutto il mondo ed è controllato sempre di più da pochi grandi gruppi che sono appunto i famosi signori del cibo che abbiamo messo nel titolo. Ecco, nel tuo libro c'è un tema, quasi un personaggio ricorrente, che sono quelle che tu definisci aziende locusta. Che cosa intendi con questo termine? Diciamo che negli ultimi anni, sia negli ultimi anni del secolo scorso che soprattutto in questo inizio di secolo, inizio di millennio, diciamo, c'è un sempre maggiore interesse di gruppi finanziari nella filiera alimentare. Dopo la crisi del mercato azionario classico e della crisi immobiliare negli Stati Uniti, un'enorme quantità di capitale speculativo si è andato a immettere nel settore della produzione e della commercializzazione del cibo. Quindi ci sono questi grandi conglomerati che producono alimenti, che io definisco aziende locusta perché hanno come principale obiettivo non tanto la produzione in sé di prodotti alimentari quanto, diciamo, la moltiplicazione dei profitti. Diciamo che hanno un atteggiamento estrattivo nei confronti dell'ambiente e dei mezzi di produzione che dovrebbero portare avanti il loro business. Quindi li chiamo appunto aziende locuste perché, come dei nocciami di locuste, si muovono nel pianeta cercando dei territori da sfruttare, dei mari in cui pescare, degli ambienti da saccheggiare, senza curarsi appunto della sostenibilità del loro business, senza curarsi della riproducibilità del loro ambiente e delle materie prime che loro utilizzano per la trasformazione dei cibi che producono. Ecco, entriamo proprio nel vivo del tuo libro. Infatti il sottotitolo è Viaggio nell'industria alimentare che sta distruggendo il pianeta. È un'accusa grossa. Di che pericoli parliamo in concreto, in che tempi, e questi pericoli riguardano alcuni paesi più di altri? L'idea che siamo un po' di fronte a un bivio, che cioè se il sistema di produzione alimentare continua come si è andato sviluppando negli ultimi anni, c'è un pericolo proprio per le risorse del pianeta, nel senso non c'è la sostenibilità tale da poter garantire una produzione di quel tipo. E questo soprattutto perché negli ultimi anni un sistema di consumo e quindi anche di produzione, che era quello dell'Occidente, cioè quello degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale, si è andato diffondendo in paesi che si sono arricchiti e che hanno costituito degli enormi ceti medi, in particolare la Cina e anche in parte l'India, e quindi il numero di persone che hanno avuto accesso a un certo tipo di particolari diete, come per esempio la dieta ricca di proteine animali, quindi la carne, è aumentato in modo vertiginoso. Io sono stato in Cina a vedere questi enormi allevamenti di maiali. In Cina vivono la metà della popolazione suinicola mondiale, 700 milioni di porci, quindi uno ogni due abitanti, e questo consumo di carne, per citare una delle quattro filiere, impone la necessità di trovare nutrimento per tutti questi animali che sono chiusi in dei capannoni e quindi l'importazione da parte della Cina di milioni di tonnellate di soia dal Sud America. Quindi è tutto un sistema, diciamo, triangolare che non è virtuoso, che porta alla distruzione dell'ambiente, alla deforestazione di intere zone del pianeta, tutto per alimentare una dieta che alla lunga non potrà essere sostenibile per il pianeta nella sua interezza. Quindi io credo che sia necessario rivedere le nostre abitudini alimentari, un po' di tutta la popolazione mondiale, e cercare di regolamentare l'azione di quelle grandi aziende che nel breve periodo fanno grandi profitti, ma che nel medio periodo creeranno un danno sempre più elevato al pianeta nel suo insieme. Non è un obiettivo da poco. Secondo te chi potrebbe avere un ruolo nel modificare le abitudini di popolazioni che stanno crescendo a ritmi che in Europa, in Nord America, non vediamo più da decenni? Diciamo che in quei paesi in particolare c'è un forte una forte influenza del governo anche sulle abitudini delle popolazioni. In Cina in particolare, per parlare sempre del maiale, il maiale è un elemento molto importante sia nella cultura che anche nella dieta dei cinesi, e l'aumento del consumo di maiale e lo sviluppo degli allevamenti intensivi industrializzati come stanno sviluppando negli ultimi anni è stato fortemente sollecitato dal governo cinese con tutta una serie di finanziamenti e di sgravi fiscali che sono stati dati alle aziende che lo stanno portando avanti. Quindi un certo tipo di ragionamento può essere fatto sicuramente dai poteri pubblici, perché questo tipo di sviluppo non è uno sviluppo figlio di un mercato neoliberale che si è mosso da sé, ma è stato sollecitato e fortemente accompagnato dal governo centrale. In generale penso che anche i consumatori, più nel mondo occidentale, possano giocare un ruolo anche nella modifica dei meccanismi di produzione del cibo. È un po' passato, soprattutto nel mondo occidentale, l'idea che il cibo debba costare poco, perché in effetti nei nostri paesi la percentuale di spesa che noi sosteniamo per il cibo, per il nostro nutrimento quotidiano, è molto bassa. E quindi questo schiacciamento verso il basso dei costi degli alimenti ha portato anche allo schiacciamento degli standard di qualità, alla ricerca sempre di strozzamento delle spese e via dicendo. Credo che questa sia una tendenza che debba essere invertita. E credo soprattutto che debba essere anche invertita quella tendenza che vede che c'è una totale opacità delle filiere. Io nel corso dei miei viaggi ho riscontrato come era anche difficile ricostruire i diversi passaggi che portavano una materia prima alimentare, un frutto, un animale, un pesce o quant'altro dal suo habitat naturale, cioè dal campo, dal mare o dall'allevamento fino allo scaffale del supermercato. C'erano tutta una serie di passaggi che non sono chiari. Non sono chiari perché non sono esplicitati, non sono mai scritti sulle etichette dei prodotti che vengono venduti, per cui è difficile anche capire da dove provengano i nostri alimenti, che tipo di percorsi hanno fatto, come sono stati trattati. Il tema della filiera trasparente è un tema che è in discussione anche nei nostri paesi, ma che adesso a norma di legge non esiste, siccome il libro poi di questo tratta, oltre che delle disfunzioni del mercato alimentare mondiale, il libro è accompagnato anche da una campagna di sensibilizzazione su questo tema, cioè sulla trasparenza della filiera, che è condotta da una ONG che si chiama Terra. Potrebbe la tecnologia offrire una risposta, per esempio tramite OGM, ingegneria genetica? Sono una soluzione? Ma questo è un grande tema su cui esistono due scuole di pensiero che si contrappongono in modo estremamente ideologico e su cui non si è trovata una quadra. Nel senso, gli OGM sono effettivamente dannosi per la salute umana o meno? Mi sembra che ultimamente a livello scientifico sia emerso che non c'è prova di un'effettiva dannosità. No, non c'è una prova provata di effettiva dannosità. Però l'Unione Europea applica il cosiddetto principio di precauzione, per cui vieta il consumo di moltissimi alimenti geneticamente modificati perché non sa per l'appunto se possono far male. Io penso che nel futuro questa cosa cambierà, o meglio, dovrebbe essere facilitato la ricerca su questi temi. l'approccio molto ideologico che c'è sul tema impedisce anche una ricerca da parte dei poteri pubblici sulle potenzialità e sulla eventuale dannosità di queste colture, e quindi lascia la ricerca nelle mani di istituzioni private, che sono gli stessi istituzioni, gli stessi organismi, le stesse aziende che producono gli OGM, e quindi non sono da considerarsi come degli arbitri imparziali, diciamo, in questa discussione. Ed era Stefano Liberti, intervistato da Daniele Zinni, che ringraziamo. Ci fermiamo per un minuto e poi torniamo a parlare di mais questa volta. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale, e la Formula 1 che finisce, il ciclismo che non finisce mai, il MotoGP, il campionato di calcio. E tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile. Tutti i giorni, tutti convocati. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30, c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente. Siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni di tutti. Una squadra fortissimi. L'altro pianeta. Di nuovo un buon pomeriggio da Laura Bettini. Come dicevamo, in questo fine settimana ricorre la giornata mondiale del cibo ed è quindi una buona occasione per fare il punto finale questa volta su una sperimentazione che negli ultimi 3 anni è stata condotta a Mediglia, in provincia di Milano, nei campi dell'azienda agricola Folli di Mario e Alberto Vigo. Noi l'abbiamo seguita fin dall'inizio con Mario Vigo stesso, che è l'ex vicepresidente di Confagricoltura Nazionale, che ha messo a punto un protocollo di produzione che è stato denominato Combi Mais Hydro Technologies, per la produzione innovativa e sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico del mais, appunto. Un anno fu siccitoso, un anno piovoso. Questa forse è stata l'annata normale, gli abbiamo chiesto? Diciamo che dei 3 anni, visto che stiamo parlando di Combi Mais 3.0, possiamo chiamarlo l'anno più normale? Direi quasi di sì. Un anno sicuramente positivo, un anno con un andamento climatico altrettanto buono, non nella fase finale in cui abbiamo riscontrato un'anomalia nel mese d'agosto con una serie di temperature molto elevate e un'assenza di precipitazioni. Questo ha permesso di condurre in porto la coltivazione con il risultato migliore degli ultimi 3 anni, non da record in funzione di questo andamento stagionale. E comunque un 13,5% in più rispetto al 2015, quindi comunque siamo andati oltre l'anno scorso. Posso correggerla dicendo sì, che siccome abbiamo terminato proprio ieri sera le operazioni di raccolta, questo dato di 13,5 glielo correggo addirittura in 20,5. Vabbè, ma corregge al rialzo, va ancora meglio. Va ancora molto meglio rispetto al dato della raccolta 2015. Sostanzialmente mi sento di ripiegare dicendo: primo anno di Combi Mais, 7 ettari, 15,3 la produzione; secondo anno, quindi 2015, anno dell'Expo, 23 ettari di Combi Mais 13,2, quest'anno Combi Mais 3.0, 28 ettari, 15,9 produzione ottenuta. Quello che mi sento di sottolineare è che sicuramente è una produzione molto elevata a seguito di un protocollo estremamente rigoroso che abbiamo seguito, che è sperimentale ma fatto, lo ricordo, su larga scala, perché 28 ettari sono una dimensione già importante dell'azienda. Ricordo che la media di un'azienda agricola in Lombardia è 7 ettari, quindi diciamo più che una sperimentazione è una produzione. Sì, sicuramente. 7 ettari la media in Lombardia, quindi altrove mi dà l'idea che possano essere anche più piccoli, perché già la Lombardia ha delle estensioni superiori, penso. Sì, certo. Rispetto all'Italia, ovviamente, non sto pensando ecco, agli Stati Uniti, parliamo di altri... quantità. Esatto, dobbiamo tener conto dell'areale agricolo italiano, in cui la regione Lombardia è la regione che ha comunque un'estensione maggiore dal punto di vista produttivo e dal punto di vista anche del terreno. Quindi una sperimentazione fatta su 28 ettari è una sperimentazione ormai che corrisponde a un'azienda, anche se la mia azienda è un'azienda di 100 ettari. Quindi le ha dedicato una bella fetta ed è aumentata nel corso degli anni, quindi direi che è stata un'esperienza positiva che l'ha convinta anche via via che la portavate avanti. Beh, assolutamente, diciamo che le considerazioni che possiamo fare sono sicuramente che l'innovazione è ciò che premia, è ciò che è necessario per l'agricoltura italiana. Certamente un progetto di questo genere è e deve essere estensibile. Innovare a costo anche di avere maggiori costi, però premia perché i risultati produttivi sono sotto gli occhi di tutti e mi permetto di sottolineare il valore non solo della produzione che può essere importante per l'imprenditore agricolo, ma soprattutto per la qualità del prodotto che abbiamo ottenuto. Per il primo anno del progetto Combi Mais abbiamo completato la filiera con l'inserimento di un mulino che produrrà una farina estremamente qualitativa. Ricordo che con la produzione quest'anno di Combi Mais saremo in grado di fare 200.000 sacchetti da un chilo di farina da polenta. Quindi direi che possiamo coniugare veramente lo slogan dal campo alla tavola. Ah, sicuramente. Poi tra l'altro fate tutto in zona, quindi ci avete anche chilometro zero, direi. Abbiamo pure anche chilometro zero. Tutte le ultime tendenze, diciamo, della moda. C'è anche l'aspetto che lei non ha forse ancora nominato, ma che abbiamo detto in passato, sicuramente di una produzione più sostenibile ed esente da aflatossine, che è anche questo un dato importante che io direi va sottolineato. Allora le ricordo due passaggi importanti. Questo progetto, oltre a essere produttivo, rispetta in maniera particolare l'ambiente per due motivi. Primo, per il mantenimento di un'agricoltura ecocompatibile, fatta anche di un grande risparmio dell'acqua, 35% meno dell'acqua usata per produrre questi quantitativi di mais, è un grande messaggio a favore ovviamente dell'ambiente. E il secondo passaggio altrettanto rilevante è che per il secondo anno consecutivo abbiamo ottenuto un prodotto esente da afla o micotossine, che sono evidentemente estremamente pericolose per la salute umana e garantiamo e garantiscono la completa tutela del consumatore nell'elemento finale, quindi della polenta Combi Mais. Ok, poi la polenta è un risultato finale possibile, ma il mais, anche questo lo ripetiamo più o meno da quando ci siamo sentiti la prima volta, il mais in realtà entra in tantissime produzioni, compresa quella la filiera delle carni, no? Perché viene utilizzato per alimentare gli animali, quindi avere un buon mais in partenza di qualità sostenibile, che non faccia male alla salute, eccetera eccetera, è anche una garanzia di prodotti i più vari, non solo la polenta. Esattamente, diciamo che quest'anno noi abbiamo voluto fare questa produzione mirata a una specificità, cioè la produzione di mais per uso alimentare polenta, ma ricordiamo che il mais è il cereale più sviluppato nel mondo e con il quale si possono effettuare qualsiasi tipo di alimentazione, infatti la presenza del mais è totale in tutti i tipi di allevamento, in tutti i tipi di produzione. Ricordo che noi abbiamo il mais nei formaggi, il mais nella carne, il mais nel latte, quindi è importantissimo per l'alimentazione umana avere un prodotto estremamente sano e in questo caso applicando un protocollo completo come è previsto dal protocollo Combi Mais è garanzia di salubrità per il consumatore. Dunque, negli anni, oltre a aumentare l'estensione di terreno che ha dedicato a questa produzione, ho visto che siete intervenuti ovviamente anche per aggiustare il tiro laddove fosse necessario per migliorare, no, la coltivazione stessa, quindi magari utilizzando un concime invece di un altro, un tipo di irrigazione invece di un'altra, e così via via sono state messe a punto, no, delle cose. Nell'ultimo anno vedo in particolare la concimazione appunto e avevo letto, ecco, la pulizia del campo. Quali novità avete introdotto? Sì, beh, diciamo che questo progetto, grazie alla partecipazione di tutti i partner, è un progetto che fa dell'innovazione la carta vincente. Infatti per la prima volta non è solo un progetto che prevede una produzione, ma c'è una continua ricerca in tutte le specializzazioni che i partner producono, quindi la nutrizione delle piante, la nutrizione del terreno, la pulizia del terreno, addirittura la lavorazione del terreno. E questo è chiaramente un motivo per cui si riesce a essere estremamente positivi, estremamente innovativi. È una delle carte vincenti che noi cerchiamo di proporre facendo scuola al mondo agricolo, e aggiungo con l'ulteriore necessità di mettere tutti questi dati importanti e questa produzione al servizio non solo del mondo agricolo ma anche del mondo della ricerca. CombiMais vuole essere anche innovazione e ricerca, proprio per dare una risposta positiva alle esigenze produttive, ma anche alle esigenze alimentari della nostra società. Ma di tutti gli agricoltori, dei visitatori che avete avuto in questi ultimi anni, perché comunque ci sono stati anche quelli dell'Expo, ma poi ci sono state anche altre occasioni di incontro, qualcuno si è interessato, a copiare questo tipo di produzione? Diciamo di sì. A proposito di scuola, no? Lei diceva facciamo scuola anche. Esatto, sì. Diciamo che per completare il tutto avremmo una necessità di alcuni interventi istituzionali. Produrre non è sufficiente, poi bisogna saper bene commercializzare, ma per completare la filiera esistono anche delle politiche di settore. CombiMais fa ovviamente scuola, e il nostro augurio è che da parte delle istituzioni ci siano anche delle politiche di settore atte a far sì che questo protocollo possa essere poi ampiamente promulgato e sperimentato, perché no, anche in altri paesi. E questa è una delle cose che a noi fa molto piacere. Ci sarà un CombiMais 4.0? O per ora mettete in cantiere i dati, li studiate e poi vediamo? Visto i risultati di quest'anno e visto anche, lo sottolineo, oltre a tutta la capacità di tutti i partner che compongono il gruppo CombiMais, anche l'aiuto del professor Ranieri dell'Università Agraria di Torino, ci hanno dato ovviamente soddisfazione. Io credo di poter dire, parlo da capitano di questa squadra, che è mia intenzione e credo di interpretare il desiderio di tutti i partner di impostare CombiMais 4.0. E vorrei chiudere con una frase che ho sentito recentemente a Slow Food a Torino nei giorni scorsi, in cui si diceva: se noi siamo ciò che mangiamo, noi siamo mais. Ecco, io credo che questo sottolinei l'importanza di questa coltivazione e l'importanza di continuare a ricercare e innovare per poter fare impresa nel nostro paese. Grazie molte a Mario Vigo per essere stato ancora una volta con noi. Allora buon lavoro e a risentirci alla prossima occasione. Grazie a voi, a presto, buon lavoro. Grazie a Mario Vigo, grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto.